consumazione, collaboriamo con il CREA per le prove di iscrizione delle foraggere ogni anno e dopo vi faremo vedere qualcosa che abbiamo in campo. L'altro settore è l'agricoltura biologica, quindi coltiviamo in terreni biologici ortaggi che poi vediamo principalmente presso lo spaccio aziendale, ma anche abbiamo iniziato qualche collaborazione con delle cooperative che forniscono le scuole, quindi gli ortaggi per le mense scolastiche. E l'altro settore è l'agricoltura sociale, infatti collaboriamo, siamo diciamo una sorta di rete di imprese insieme a Ecol in particolare, con Barilla e il Comune di Parma, e quindi ospitiamo diciamo ragazzi, cioè lavorano qua, un gruppo al mattino, un gruppo al pomeriggio della cooperativa Ecol, che hanno anche il settore dei laboratori per i bimbi, e ospitiamo le scuole per le uscite didattiche, partecipiamo a queste giornate e proponiamo, cioè rendiamo diciamo partecipi cittadini delle nostre colture principali come il pomodoro e il peperoncino, che abbiamo un'antica tradizione insomma di mantenimento di molte varietà, e quindi ogni anno facciamo la festa del pomodoro e del peperoncino, e oltre che ormai la tortellata di San Giovanni è diventato un appuntamento fisso. E niente, questa è diciamo, un po' una panoramica sulla nostra azienda. Quindi adesso, qua come potete vedere sono alcune... No, che noi siamo venuti perché volevamo sollevare un po' delle obiezioni sulla vostra impostazione riguardo alla ricerca in campo, no? Cioè, quindi un po' la partecipazione del CREA, che insomma io volevo chiedere cosa ne pensate del fatto che partecipi a quell'istituzione che si chiama AgriTech Center, che mette insieme sostanzialmente tutte le istituzioni di ricerca italiane, delle università, insieme a società come Leonardo Finmeccanica, ENI e molte altre. Quindi questa operazione in cui sostanzialmente il capitale industriale entra in uno stesso ente insieme alla ricerca e è in grado di dirigerla, perché c'è proprio scritto nello statuto, e forma anche tecnici che poi vadano nelle aziende in Italia, si chiamano innovation broker, per proporre le soluzioni agricole che di fatto sono pensate dal capitale che fa parte di quella stessa organizzazione. Voi non pensate ci sia un conflitto di interessi? E poi la seconda cosa è come pensate voi di mantenere insieme lo sviluppo dell'agricoltura biologica e insieme gli OGM, comunque sia le NGT, quindi con le possibili contaminazioni, no, con le sicure contaminazioni che sono già documentate anche con precedenze e esperienze, insomma, che di fatto eliminerebbero la possibilità di mantenere delle coltivazioni e delle varietà che sono libere da tutta una serie di tecniche genomiche che non fanno parte del background dell'agricoltura biologica. Posso un attimo dire che intanto magari qua ci sono tanti bimbi e tante famiglie, adesso passo la parola al Presidente che vi risponde brevemente, poi io con le famiglie farei intanto un giro, poi perché ci sono anche bimbi, dopo possiamo parlarne magari. Sì, però sarebbe interessante un dibattito a cui partecipiamo tutti nel momento che decidete voi. Sì, certo. No, volevo solo dire che intanto i nostri l'azienda SCUR nasce come azienda agraria sperimentale, quindi il nostro dovere è comunque quello di essere a servizio del Ministero, in questo caso in generale di chi vuole sperimentare. Abbiamo anche una prova di mais dolce in campi, in campi convenzionali, quindi Stuart all'interno dell'azienda è solo biologico, abbiamo campi in affitto esterne all'azienda dove si fanno prove in convenzionale, quindi dove sono consentiti ancora trattamenti, cioè diserbi, insetticidi, sempre rispettando i limiti dell'agricoltura integrata, ma abbiamo una ditta olandese che vuole provare 200 varietà per dire di mais dolce da commercializzare con l'Italia per farci mais, quella come tutti conoscete, quindi non biologico, e quindi noi gli abbiamo prestato il nostro servizio e allestiremo il campo al di là dell'azienda dove se necessario faremo trattamenti consentiti comunque in agricoltura convenzionale, quindi le due cose penso che possano convivere tranquillamente, perché il cittadino sceglie il biologico e noi glielo siamo in grado di darglielo, e la l'agricoltura convenzionale che richiede altre tipologie di coltivazione sono distanziate e in un altro campo, quindi la contaminazione non avviene di pesticidi, ci sono le aree di rispetto, tutto secondo la legge. E quindi il nostro ruolo, l'azienda nasce come azienda agraria sperimentale, insomma, quindi noi comunque vogliamo e dobbiamo appoggiare anche chi vuole sperimentare nuove varietà, nuove tecniche di concimazione, tutto a vantaggio sempre del cittadino. Ma perché a vantaggio del cittadino? In che termini? Cioè, nel senso, sì, faccio un esempio, no? Uno studio che ho fatto, cioè Mutti è passato in 10 anni da fatturare 40 milioni di euro a fatturare 600 milioni di euro. Al cittadino cosa gliene viene? C'è la monocultura in tutta la pianura padana e in tutta la Puglia che devasta il territorio, perché lei lo sa, la monocultura devasta il territorio. Quindi a me sembra che ci siano gli industriali che hanno tutto vantaggio che si porti avanti un certo tipo di agricoltura, mentre la cittadinanza che in verità ne va a svantaggio. E anche il discorso lei dice sceglie il biologico, uno può scegliere il biologico se ci sono condizioni di mercato che permettono a chi ha un determinato reddito, un determinato tenore di vita di permettersi il biologico, però se gli enti di ricerca e l'università e lo Stato continuano a finanziare gli interessi del capitale militare italiano e israeliano, le posso portare le prove in un secondo, invece di quelli dei cittadini, allora si continueranno a sviluppare delle filiere agroindustriali che fanno il vantaggio dell'industria invece che delle filiere agroecologiche che farebbero il vantaggio invece del territorio, della cittadinanza e che potrebbero creare cicli più positivi per noi, credo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Mi chiamo Roberto Rognelli e sono il presidente di questa azienda e sono molto onorato proprio di fare il presidente alla fine della mia carriera, visto che ho iniziato come giovane agronomo in questa azienda e quindi la conosco bene. Lei si chiama? Barattini Andrea. Piacere. È agricoltore? Ci provo. Dove è che coltiva? Sto sulla montagna in Garfagnana. Ah, ok. Ma insomma, ma avendo anche la mia manodopera fuori, non sono in grado di sostenermi con l'agricoltura. Appunto, non è facile, è vero, sostenersi con l'agricoltura? No, è difficilissimo. È molto difficile, noi lo sappiamo e lo sappiamo. Qui è un gruppo di agronomi, è una dei posti in provincia di Parma dove c'è la massima concentrazione di agronomi e di tecnologi alimentari. E le garantisco che seguiamo le questioni e ci preoccupiamo di qualsiasi aspetto che riguarda parliamo tra noi, scusi, agronomi tecnologici, chi li forma? L'università, per fortuna, perché la conoscenza dov'è? L'università di Bologna è nata... Privato. Ma non è vero. Ma scusi, vediamo AgriTech Center, mi commenti AgriTech Center, io voglio un suo commento sull'istituzione dell'AgriTech Center. Che è un derivato, è un progetto, se non ricordo male, un progetto che ha dato origine a tante... specie NGT all'agricoltura 4.0 delle tecnologie, cioè alla diffusione così fortissima verso quel tipo di agricoltura che stiamo vedendo. E io guardi, con due pagine internet le posso dimostrare che qui le esigenze della popolazione non c'entrano niente. Qui ci sono le esigenze del capitale israeliano e quelle del capitale italiano. C'entrano tantissimo perché si porta al 60% della passata. Grazie all'agricoltura, adesso non so se sia un bene o un male, però grazie all'agricoltura che è stata impostata con l'immissione di tecnologie e di conoscenza, negli ultimi 100 anni siamo 8 miliardi. Se non ci fosse stata l'agricoltura... È la legge di Malthus, professore. È la legge di Malthus. Presidente, è la legge di Malthus. Più si mettono... Cibo, cresce la popolazione. Cibo, non è sano, la popolazione sano, è ammalata. Non è vero ma perché moriamo, non si muore più. Cazzo. Ma perché veniamo curati a partire dai 60 anni in poi? Siamo 85 anni, porco cane. Medicalizzati per gli ultimi 20. Io non ho conosciuto i miei nonni che sono morti, che facevano gli agricoltori a 51 e 54 anni. Io ne ho 67. C'erano e sono molte sano come condizioni. Intanto già i suoi nonni erano a contatto con l'IDT, erano a contatto con tutta una serie di sostanze. Ma no, prendevano la pleurite. pleurite, prendevano le pleurite perché curavano le vacche, perché sapevano usare le mani e i muscoli, e però purtroppo dovevano continuare a curare le vacche anche quando erano ammalati, e si beccavano la pleurite e morivano. Benissimo, perché quindi, vuol dire c'erano delle disuguaglianze che costringevano il suo nonno a lavorare anche in condizioni che non erano grazie quelle. Grazie alle tecnologie. Allora, Parliamo di queste tecnologie nel dettaglio. Allora, io ho vissuto anche la tecnologia, il discorso concettuale di 25 anni fa, per capire se qual era la posizione che doveva prendere l'Italia e l'Europa e le aziende in generale sugli OGM, intesi come dei pezzi di genoma di qualsiasi specie, e la cacci dentro alla specie di interesse, no? E quindi giustamente non la specie, comunque sia, stiamo parlando di frammentini, cioè stiamo parlando di trasformare degli organismi in una sequenza di DNA che non viene compresa, perché lei lo sa che la conoscenza che abbiamo ora sull'espressione del DNA è minima. Cosa è successo? È successo che l'Europa li ha rifiutati. Li ha rifiutati. Cosa è successo? Che li hanno fatti tutti negli Stati Uniti, in Africa, esatto, e adesso sono nei guai, perché c'è un articolo che è uscito su Science un mese scorso che dice che la diabrotica ormai non l'ammazzi neanche se la schiacci con la Ce l'abbiamo anche qui purtroppo la diabrotica, e non ci sono gli OGM, quindi gli OGM non funzionano, hanno avuto in 30 anni, hanno avuto 30 anni di sperimentazione e hanno avuto risultati pessimi. Non è vero, perché sono riusciti a dal punto di vista di chi ha esportato dal punto di vista di chi ha esportato, quello è successo. È successo che ci hanno invaso di mais e soia. Ma chi è che ha esportato? Signor Ranieri, chi è che ha esportato? Non io e lei. Cioè, stiamo parlando di una corporation di grandezza mondiale che utilizza il mondo. Non è vero, ci sono tante aziende. Signor Ranieri, ci sono delle finanziarie americane, le dico i nomi, sono State Street, sono BlackRock e sono una terza. BlackRock è un fondo gigantesco, certo che c'ha interesse. E certo, ha in mano sia il CREA, ha in mano Leonardo, ha in mano quelli che distribuiscono i semi, ha in mano tutto, ma le devo far vedere le partecipazioni al capitale finanziario. Quant'è stata la diffusione di questi OGM? Si sono diffusi parzialmente solo in questi paesi. Perché non funzionano, a parte hanno distrutto il Brasile, ma perché la deforestano l'Amazzonia per metterci sopra la soia Roundup Ready? È quello che succede, c'è la foresta amazzonica, tutti i giorni alle foreste, stanno deforestando per metterci soia Roundup Ready, per ingrassare le vacche, per dare agli americani che sono larghi così i panini con l'hamburger. Non è sfamare il mondo. È successo che hanno portato mais OGM qui, noi l'abbiamo dato da mangiare ai nostri animali, certo. La nostra produzione nazionale del mais da 10 milioni di tonnellate è crollata a 5 milioni di tonnellate. Quest'anno ne abbiamo fatto meno di 5 milioni. Ed è la dimostrazione che se noi è la perfetta dimostrazione che se l'agricoltura noi la facciamo gestire dal capitale internazionale, ce l'abbiamo tutti in tasca. Questo, guardi, che è già successo qui in Pianura Padana. Prima si faceva l'alternanza grano mais, poi è iniziato ad arrivare il grano, ma stiamo parlando dei primi del Novecento, il grano portato con i bastimenti a vapore a basso costo dagli Stati Uniti, e qui si è impiantata l'industria conserviera. Come si vede, siamo all'inizio di tutto ciò. Qua c'era un territorio sostenibile, c'erano pratiche agroecologiche, povertà. Ma siamo diventati 50 milioni, 60 milioni e 60 milioni. Ti vecchi, stiamo estinguendo. Sono dovuti scappare altri 60 milioni, ci sono 60 c'era milioni il latifondo. Ma c'era il latifondo. Siamo passati da una produzione. C'era il latifondo, c'era la servitù della gleba. Siamo passati da una produzione di 15 quintali ad ettaro a 65 quintali Con quanti input energetici? Ma con quanti input energetici? Con quello che era le tecnologie che erano, si potevano utilizzare in questo momento. Con gli NGT, se hai la possibilità di fare uno Chardonnay che sono stati cavati, se hai la possibilità di non fare 30-40 trattamenti, Spiantate le vigne, la monocultura va spiantata, punto. Sì, ecco, e così, punto. E così la gente non fa più un cazzo, perché fa c'è tutta quella... Fa altro che cosa? Che cosa? Che circuiti economici, di dire... circuiti economici più piccoli, filiere più ristrette, locali. Sì, e che comunque... Scusami. Ascolti un po' anche la sua opinione. La sto ascoltando. No, no, ma ci stiamo ascoltando. No, ma ci stiamo... È un modo di parlare, sì, ci stiamo ascoltando. So, ci stiamo presente quello che dice. No, beh, ma adesso... Che vuol dire cosa c'entrate con loro? È una piccola azienda. È che siete a servizio, nel senso, non siamo molti, in servizio, noi facciamo, guardi, una sperimentazione, guardi, noi... se arrivasse Monsanto e dicesse io adesso sperimento pomodoro in Italia, si ritroverebbe pieno così di merda. Quindi Monsanto, se vuole fare le sue politiche, deve trovare dei player locali. Monsanto sta andando locali, benissimo. Player, ma non è mio, ma intanto il brevetto CRISPR-Cas9 è di Monsanto. Eh? Intanto il brevetto CRISPR-Cas9 è di Monsanto, quindi il vostro pomodoro paga brevetti a Monsanto. C'è bisogno di una varietà. CRISPR-Cas9 è di allora, Monsanto. Noi non abbiamo nulla. Noi abbiamo accettato di fare la sperimentazione CREA del pomodoro roba, anche perché noi qui è 40 anni che facciamo sperimentazione sul pomodoro e ci sono gli agronomi che ne sanno più di tutti di pomodoro, va bene? Da qualsiasi sì, punto di vista, sia dal biologico... È vero o non è vero che la monocultura sterilisce i terreni? Ma che e ha bisogno di il pomodoro lo fai ogni 3-4 anni, perché gli agricoltori sanno che se lo fai anno dopo anno non produci niente. È quello che succede, ma visto che l'industria conserviera vuole il pomodoro e lo paga, guarda, e stabilisce guarda, quello che si mette, lei mi vuol dire che adesso nel tavoliere in Puglia mettono il pomodoro ogni 3-4 anni, non mettono pomodoro su pomodoro, quest'anno, a Pacchino non mettono pomodoro su pomodoro? Pacchino sì, in Puglia no, quest'anno è in gemiga d'acqua, non c'è acqua e non quindi... Hanno distrutto un ecosistema? No, non c'è acqua. Perché e quindi non sarà... Non c'è, l'agricoltura perché industriale non entra sistema, nel flusso del ciclo dell'acqua, il 60% e il consumo di suolo invece non c'entra niente con la capacità dell'acqua di andare... I terreni là li conoscono, erano bellissimi, guardi, c'è un report fatto da Margherita Ciervo, il pomodoro da industria in Italia è un caso di studio della Puglia, sì, e le mostra tutti i dati alla mano che cosa è successo a un territorio che era sano e che è vitale dopo poche generazioni di coltura industriale intensiva. Si prende un patrimonio che ha ere geologiche e lo si degrada nel giro di 50 anni, è una cosa che non è ragionevole, ma è follia. Ma si dà da mangiare alla gente, ma si ma deve non dare, è vero. Si dà da mangiare alla ma gente mi scusi, anche a un prezzo accessibile. Ma mi scusi, tutte mi le politiche scusi, agricole ma comunitarie. I signori Mutti, 600 milioni di fatturato, da qualche parte per concentrare quel capitale bisogna che tu fai muovere le cose, perché se no quel capitale lì non ti ci entra tutto lì dentro. Allora c'è un principio della fisica, va bene, che dice che se si vuole fare un rigradamento antropico, concentrare del capitale, bisogna portare lo scompiglio nei sottosistemi più bassi, cioè nell'ecosistema, cioè affinché il capitale accumuli risorse, l'ecosistema deve andare in confusione. Io guardi, non ce l'ho con lei, io capisco la sua cosa, ma è per questo che noi stiamo cercando di parlare con lei, perché lei potrebbe essere una di quelle persone. Prego, posso dire una cosa, no? Anche se allora, non voglio intervenire. Il tema però, no, voi siete qui a contestare una scelta, però no, vuol dire il tema della globalizzazione e delle sue conseguenze non è un problema dello Stato, è un problema di tutti. Allora, non si può, cioè io posso condividere molte delle cose che tu dici, però alla fine c'è una scelta su cui poi vi concentrate anche nella contestazione, ma è, come dire, è un tema molto più complesso, cioè rispetto alla scelta della Monsanto o di altre aziende, qual è la responsabilità dello Stato? Perché il tema poi è questo, no? Certo. Poi contestate il fatto che si faccia questa sperimentazione. Posso dire un'altra cosa? Lo Stato si è reso disponibile a fare anche un incontro. Sì. Per parlarne, questo incontro non si riesce a fare, ma non, per non a causa nostra, le posso assicurare. Anzi, se vuole un invito formale, il giorno 22 ci sarà una presentazione a Parma, in città. Siete invitati, lei, i suoi agronomi, quelli che volete. Ci abbiamo lavorato due mesi per fare un incontro pubblico. Guardi, non è dipeso da noi, le posso assicurare. Con la dottoressa Marconi. Ma i grandi professori sono meno disponibili di noi. Noi non siamo grandi professori, ma siamo diciamo disponibili siamo al dibattito in ogni leggevo un volantino perché due sabati fa, non so perché il due sabati fa sono arrivati. Il Ministero dell'Economia Solidale è quello che a Parma cerca di rappresentare l'economia diciamo non tradizionali. Beh, esatto, sì, sì. Dopodiché, diciamo che non possiamo in questa appunto, sera appunto se le economie non tradizionali fanno gli OGM, dove andiamo a finire? Le nuove genomic techniques adesso a livello, allora in alcuni paesi non è neanche preso in considerazione come OGM, perché non sono OGM, perché sono delle mutazioni, governi, istituzioni talmente tanto deboli, sono mutazioni indotte, ma tramite tecniche di laboratorio ingegneristiche. Sono OGM tramite gli anni 70-80. Parliamo del CRISPR-Cas9. Allora, il CRISPR-Cas9 non solo è un brevetto Monsanto, ma la NATO, il Pentagono, cioè sono i dati, ci ha già stanziato sopra 60 milioni di euro perché viene utilizzato per fare il gene driving. Cioè nel CRISPR-Cas9 c'è la potenzialità di poi sterilire milioni di ettari, far collassare la gente per terra così. Sì, professore, guardi, ho i dati qui, sono potenzialità che ci sono, quindi fare ricerca sullo sviluppo della potenziale del CRISPR-Cas9, cioè noi non viviamo in un mondo dei sogni, lo sa, me lo dice lei, noi viviamo in questo mondo qui, e in questo mondo qui vuol prendere il telefono, io le faccio vedere come nasce AgriTech Center, perché c'è stato un incontro bilaterale fra Italia e Israele in cui è stato deciso che attraverso Leonardo Finmeccanica, che produce armi, non produce agricoltura, che benediceva la cosa, è stato creato un hub a Napoli del pubblico privato che facesse testualmente da ponte nel Mediterraneo per le tecnologie israeliane, tra cui quelle in agricoltura. E questi qui sono brevetti israeliani Non sono brevetti israeliani. La settimana scorsa ascoltavo un'esperta dell'EFSA che diceva che al momento c'è una sola domanda di adesione forse in Europa. In Europa. Grazie, se in fanno Europa. La domanda, io le posso assicurare che ce ne sono migliaia. Guardi, lei contatti Crocevia, l'Istituto Crocevia che si occupa di questo, sì. Ci sono già richieste, migliaia e migliaia di adesioni. Chieda la lista di già quanti prodotti sono stati presentati. Quindi. Tra l'altro non solo Tea, perché si sta parlando di biopesticidi, si sta parlando di biofertilizzanti, tutti i medi in laboratorio. Si passa all'inquinamento di tipo biologico invece che chimico, va bene? Allora, l'agricoltura rigenerativa nasce come una bellissima cosa. Sono morti distribuendo diserbanti. Sì, e bisogna fermare questo scempio. Il DNA interferente? Lei dice sono morti, ma quando l'industria ha presentato i prodotti sul mercato non ha detto agricoltori voi adesso creperete tutti spargendo questa cosa, ha detto sono sicuri, aumenteranno le rese, sfameremo il mondo, e poi gli agricoltori sono morti a posteriori. Mano a mano che il mondo va avanti o anche indietro, dirà lei, si usano le tecnologie del momento, si è usata la genetica Mendel quando ha scoperto le basi della genetica di Mendel non è scaduta, funziona meglio della biologia molecolare. Ha funzionato fino a però c'è un problema Mendel, lo sa qual è il problema di Mendel? Il problema è che se io contadino con il suo aiuto mi sviluppo una varietà di pomodoro che mi propago da seme per conto mio e che è effettivamente sana e che quindi non ha bisogno di trattamenti, l'industria cosa diavolo fa? Cosa fa? Chi me lo vende il rame? Nessuno. Chi me lo vende il diserbo? Nessuno. Noi ma che vuol dire non è vero? I fatturati da dove vengono? Noi facciamo tutto il tempo, nel nostro potere qui biologico, facciamo tutto il tempo agroecologia, coltivazioni di varietà antiche. Come va il grano del Ceccarelli? Ha visto la farina, l'ha comprata la farina del Turano. Come va il grano del Ceccarelli? Va che produce un terzo in meno, due terzi in meno, facciamo 25 quintali, facciamo, anziché farne 50 o ma 60. Ma si è stabilito, ho capito, ma ecco, se uno può creare... Riusciamo a vendere la farina e a fare il pane, ecco, solo quello, perché altrimenti dovremmo chiudere. Ma lei sta mettendo insieme due sistemi, cioè un sistema ecologico e c'è un sistema economico, e noi siamo disposti a andare a lavorare il patrimonio genetico della cellula che ha miliardi di anni per non cambiare un sistema economico iniquo e ingiusto che si è inventato un manipolo di stronzi 100 anni fa. Le sembra una cosa ragionevole? A me sembra che la genetica delle piante debba rimanere quella e che invece l'economia debba essere cambiata. Ti permette di essere in 8 miliardi? Non è vero. Allora, mi scusi, lei fa pomodoro. Allora, questa pianta tea è pomodoro da salsa, vero? No, quello che... Pomodoro da industria, quello che sperimentate qui, è pomodoro da industria. No, qui, cioè, lo faremo no, sempre quando arriveranno le piante. Prima di tutto non so neanche se arriveranno le piante. Ho capito, la pianta tea è pomodoro da industria. È un pomodoro che... E secondo me è una pianta, non so neanche se è da industria, lo chiede al ricercatore così. No, è un pomodoro che è resistente alle Eurobande. Basta. Chi mette questo pomodoro in campo? Perché è uno dei principali parassiti. No, che non esisteva. Se lei prende un vecchio manuale di agraria, l'Eurobanca del pomodoro non esiste e che si è sviluppata con la monocultura, in particolare al sud. Perché l'Eurobanca è una pianta che non fa neanche clorofilla. Se vuole le parlo anche 20 minuti dell'Eurobanca. Se l'anno dopo non ci mette il pomodoro, l'Eurobanca non può nascere. No, e invece su cosa? Cosa parassita? Compare. Ah sì, su cosa? Ma sì, perché ci su sono cosa? I semi rimangono per decenni nel terreno, sì, ma e si eccitano quando sentono gli esudati radicali del pomodoro. E quindi non bisogna mettere il pomodoro. Non lo metti mai più. No, lo metti dopo 5 anni. Scusami, tutte le fabbriche così spostano le fabbriche, Casalasco, Muschi, Ormoni. Non si può, produrre il 12% della passata del mondo in Italia. Non è sostenibile. Allora, se ci vogliono, si parla di efficienza, risparmiamo l'acqua. Per fare una latta da 400 grammi di pomodoro, ci vogliono 223 litri. Insomma, vuol dire che l'efficienza è allo 0,0000 qualcosa. Quindi sì, noi diventiamo certo. Il paese ideale, tutti gli altri piano piano dobbiamo decidere. Tutti gli altri di prodotti e quindi noi non facciamo più praticamente. Ma che vuol dire fabbriche? Tutti gli altri ci riempiranno di prodotti? Ma noi chi? Ma chi? Lo Stato siamo noi. Ma che vuol dire? Noi qui che stiamo parlando dobbiamo scegliere se provare a sostenere dei processi rigenerativi agroecologici o se continuare lo stiamo facendo ma come fa a dirlo con l'NGT? Ho capito, non ma lo faccio con le due. Lei lo fa con tutte e due. Non ho capito perché deve fare l'NGT. Levi la legittimità a questa gente. Noi siamo un'azienda sperimentale e facciamo sperimentazione su tutto, sul biologico in modo legale, sul biologico e anche sul produzionale. Se lei gli dicono guardi che io voglio fare uno spray per ammazzare i cani per la strada, lei gli dice no, non è legale. Beh, ma che vuol dire, le leggi basta cambiarle, perché secondo lei era legale fare un'associazione di ricerca che metteva insieme la finmeccanica con il CREA? Non era legale. Poi hanno creato apposta un pacchetto che permettesse questo tipo di operazioni e si sono messi a farle. Però adesso non vuol vedere quel sito, ma non lo deve vedere ora, lei se lo vado a vedere, io le posso assicurare lì da dove nasca, quello è un altro agritecnologico che è stato costruito insieme da Israele e Italia per portare le tecnologie israeliane in Italia. Ci sono dappertutto, non si ma sono così neanche, è. Ma non perché si è, ma abbiamo visto cosa stanno facendo. Ma non si sono neanche posti il problema gli altri paesi, cioè quindi Israele ha già, cioè ci sono già in Cina che non si sono già posti il problema, offrono, ci sono dei laboratori in Cina che chiedono mandami la tua varietà. E dimmi qual è il carattere che deve essere migliorato, $6,500 ti rimandano indietro la varietà. Dobbiamo monitorare affinché ciò non sia possibile. Lei si rende conto che c'è ormai una liberalizzazione ormai del mercato e chiunque fa che cazzo gli pare. Ma voglio fare un po' di OGM, fa nel campo, via, prendo, li semino, li ordino in Cina, sai che cazzo me ne frega. Ma lei fare, le sembra? Non si possono fare. Ho capito, ma lei mi ha detto lei per primo che intanto basta ordinarli su internet in Cina volendo, e io faccio quel diavolo. Così. Quindi di fatto vuol dire che stiamo andando verso un sistema totalmente liberalizzato dove si può fare... Tante piccole aziende sementiere che non si possono permettere un salto di mettere su un laboratorio di biotecnologia che si faranno fare le varietà... Non faranno, allora intanto il pomodoro che sta facendo lei appunto è un pomodoro che delle ditte specializzate prendono e si mettono a fare quel pomodoro lì perché ha bisogno di... perché è un pomodoro che va innestato e che ha bisogno della sua parte OGM. clonata. Quindi non è che la piccola ditta sementiera, questa roba qua, sta proprio fuori della porta. E anzi, quello che succede è che sorgerà un grandissimo vivaio che inizierà a buttare fuori pomodori Tea sotto prezzo, perché almeno così si invade il mercato, e le piccole ditte sementiere chiudono. E poi la grande ditta sementiera... Ah no, beh, perché è già successo. Perché è già successo. In Italia sono state tutte vendute all'estero. Perché è già successo questo. Perché è successo questo. Perché l'Italia non ha mai investito sulle biotecnologie, non ha mai investito, e quindi non c'è business, e quindi le aziende sementiere vengono acquisite da tutte, tutte le aziende. Il fatto è che chi lo gestisce il mercato, cioè c'è questa idea che il mercato sia come gli alberi, che te butti insieme e nasce l'albero, ma il mercato non è un albero, un mercato è un'altra cosa. Ci sono dei player internazionali che ci hanno in pancia miliardi e miliardi e che spostandoli vanno dove fa il mercato. Lei lo sa, ora che le grandi industrie controllano tutto il mercato sementiero e tutta la semina, quando fanno il grano dicono: qual è il prezzo del grano? È X, sai cosa? Io lo tengo dentro, affamo la gente, così faccio salire il prezzo del grano e poi lo vendo a prezzo più alto. Questo succede tutti i giorni. È per questo che c'è la fame nel mondo, perché si fanno con gli OGM, si fanno i biocarburanti, e invece di coltivare le cose tradizionali si fanno i biocarburanti. Le miniere per i materiali, allora parliamo delle miniere dei materiali, il cobalto, il cobalto africano che poi va in Cina, servono queste materie prime, eh? Non è che si può fare Tea senza il cobalto, eh? Tea senza il cobalto non si fanno. Cioè, quindi i Tea sono un modo per prendere il cobalto e inserirlo nel ciclo dell'agricoltura. Nel ciclo dell'agricoltura ci dovrebbe essere il ciclo del carbonio, il ciclo dell'azoto, e il ciclo del cobalto con l'agricoltura non c'entra niente. Il ciclo del silicio non c'entra niente, del tantalio, dello stronzio, di tutte le terre rare. Però allora a questo punto, con questo ragionamento, deve spegnere anche lei il cellulare e andiamo in bicicletta. Ma io, dicendo, non moltiplichiamo il problema. No, ragazzi, il ragionamento vuol dire come società, è così. Allora stabiliamo insieme quanto telefono si può usare senza compromettere l'ambiente. Quanto telefono si può usare senza compromettere l'ambiente? Non viene fatto. Perché? Allora, ma mica lo devo fare io, deve essere fatto a livello di istituzioni. Fosse per me, lo decido io, allora prendo adesso quell'antenna giù, quello via, grazie, non serve, quello via, si fa così, non mi è permesso di fare così. Quindi bisogna che a livello di società civile si inizino a creare delle reti che poi pongano le condizioni per dire: no, questo è troppo. Che possano vigilare sul progresso della scienza, dell'industria, su come si usano i territori, su come si usa l'acqua. Il fiume Po perché è in quelle condizioni per il climate changing? Ma dai! Ma su! Lo vedo tutti i giorni, guarda. È un bel problema. Il mare rientra dentro, quando sei arrivato agosto, il mare rientra dentro. Prima non c'erano nemmeno... Ma che vuol dire molto migliorato? È molto migliorato rispetto a 40 anni fa, puzzava, perché... Ma ora non c'è più l'acqua. A Milano non facevano... Ma non c'è più l'acqua. C'è il mare che sta rientrando dentro, ma lei lo sa cosa succede se il mare rientra dentro? Non ci sono più gli ghiacciai. Diventa deserto. Non c'è più la neve. C'è anche un prelievo, chissà che prelievo che c'è tutti i giorni. No, certo. Non ci sono più. No, ovviamente i campi di pomodori non prendono acqua. No, dice adesso ne prenderanno meno perché mettiamo le centraline con l'intelligenza artificiale. Mettiamo di fare il pomodoro, mutti, va a portare. Primo, non si esporta più. Va a portare la fabbrica in Moldavia e produce là e amen. Quindi, hai capito? Senso, speriamo che in Moldavia ci siano una società civile che gli impedisce di desertificare il territorio per farne il business. Non desertifica il territorio l'agricoltura industriale. Vabbè. È così, bisogna puntare sul piccolo e naturale. Piccolo e naturale, ma signora, ma non serve, cioè bisogna dare da mangiare alle persone. Piccolo e naturale, glielo appena finito. Su da moglie la gente. No, perché se fai 15 quintali per ettaro, anziché 40, 50, 60, non gli dai da mangiare. La gente che non mangia non è che non mangia perché non c'è una quantità. La gente che non mangia, perché la strategia dei paesi occidentali è stata quella di tenere il cibo a bassissimo costo. Gli altri mangiano. Che sta male, normalmente la gente mangia e sta male perché mangia troppo nell'ambiente. Che a bassissimo costo per aumentare le fette di reddito da poter mettere, ad esempio, nell'affitto della casa. se lei guarda dove andava il salario di una persona, prima andava il 20-30% in cibo, ora ci va il 5%, ma non è che quella persona è più ricca, quello lì lo paga in bollette, nell'affitto della casa. Cioè, se prima c'era un'economia che era più distribuita perché il piccolo produttore c'ha il prezzo più alto, adesso il piccolo produttore scompare, il prezzo si abbassa e un'altra classe parassita, cioè quelli che hanno i palazzi nelle città, affittano le case ad alto prezzo. Quindi si ha proprio un travaso netto di capitale da un livello popolare a un livello, così è il ciclo che viene imposto però all'economia, non è che è un ciclo naturale. Lei, scusi, ma ora onestamente, no, ma lei cosa costerebbe rinunciare a questa sperimentazione? È un fatto di principio e di fidarsi della scienza, ma si fida anche della scienza. Ma la, no? Scienza? Se loro dicono, se gli scienziati che dicono che non sono GM, beh, la scienza è quello ma che quali? Ceccarelli dice che non sono GM? Ceccarelli, dottor genetista, dottor Ceccarelli. Non lo so, parli con Ceccarelli, se si fida della scienza. Ceccarelli è uno scienziato. Ceccarelli viene qui 4-5 volte all'anno e lo conosciamo bene. Ha mai parlato di TEA con Ceccarelli? Avete mai parlato anche con il presidente della Società Italiana di Genetica Agraria? Sì, e lo sa che tra l'altro queste persone sono tutte dentro le bonifiche ferraresi? Lo sa che sono tutte dentro le bonifiche ferraresi? Questo è proprio il pettegolezzo proprio di prendiamo il consiglio di amministrazione? Prendiamo il consiglio di amministrazione? Vediamoci su internet, vogliamo prendere il consiglio di amministrazione di bonifiche ferraresi? Lo vogliamo prendere? Rispetto a 25 anni. Scusi, fa. Perché è pettegolezzo? No, io questa sua affermazione non gliela concedo. Non lo so, cioè Silvio Salvi è dentro bonifiche ferraresi. Allora, guardiamo il consiglio di amministrazione di bonifiche ferraresi, vai. Cerca BF. Ci sono tutti i georgofili, non so se c'è questo, ma c'è il presidente della SIGA, il presidente di quello, tutti lì, sono tutti nel comitato di amministrazione. Ma lei le sembra scienza oggettiva questa? Ma com'è possibile? Cioè, se non si vigila su queste cose, se non si vigila sul fatto che la scienza deve essere neutra e scevra da interessi superiori... Perché fin tanto che... Mi scusi. 25 anni fa la comunità scientifica era molto divisa nei confronti degli OGM. Tant'è, lo è ancora. No, non è divisa. Non è divisa perché... Non è divisa? Io adesso le faccio... Ora aspetti, aspetti un attimo. Ceccarelli che è contro. Tamino, la Conti... Sono quelli dei biologi genetisti, sì, che fanno da una vita ricerca su queste cose. Tutto il resto però è favorevole, mentre 25 anni io adesso le faccio vedere chi finanzia l'industria in Italia.